sintesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. Gli eroi Borsini e Caravolo affondano col cacciatorpediniere Lullo nel Mar Rosso. Cacciatorpediniere Lullo nel Mar Rosso. Vi mangia! Comandante! Sono Caravolo! La pendente! Vengo pure! Aldo Giuntini. Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col cacciatorpediniere Lullo nel Mar Rosso.